ossigeno, che in apparecchi normali si attiva con la sensibilità, poi direi che la sensibilità se ne va a diavolo. Allora, utilizzando lo stesso filtro, non avendo il relè di scambio, succede che purtroppo accade quello che accade. Allora c'è un bicchiere, sembra quando parli sento tin tin tin, tipo un bicchiere quando sbatti una forchetta. Praticamente la stazione, adesso gli abbasso un po' l'audio, è la stazione che siccome è satura, mi fa uscire solo di tin tin tin. Così va meglio. Sì, assolutamente. L'altra volta con Claudio, quando c'era quel discorso dell'impedenza, ti ricordi col Tanner? Sembrava che ci avesse dentro il bicchiere, che stesse parlando tin tin tin tin tin. Erano dei piccoli inneschi quelli, più che bicchieri, erano più inneschi. Degli inneschini che vengono fuori per tanti motivi. Ti puoi immaginare come è fatto un apparato dentro, ti puoi immaginare un attimino quante possibilità di innesco ci sono. E quella è la mia arma più forte, far coesistere stati diversi di un apparecchio. Da bambino appassionato di modifica di impedenza, aggiungendo induttante a caso quando avevo 7-8 anni, tanto per capire, e poi me la sono portata presto. E poi ci sono un sacco di circuiti, adesso fanno tutto in un'unica scheda, qui ne fai tutto, ma prima c'erano tanti pilota, preamplificatore, eccitatore. Io mi ricordo i vecchi trasmettitori FM, quando c'era radio pilota, prepilota, eccitatore, finale, e poi c'era l'altro, tutta una catena di cose per arrivare alla potenza effettiva. Sì, anche perché in finale non riusciva ad andare se non avevi almeno una certa potenza, perciò la modulazione RF veniva prima, ma erano gli sistemi che comunque rispettavano gli standard per la ricezione in superiore di doppia conversione, capito? Riuscivano a far brillare. Io ricordo che avevo un NAD scritto amplificatore, e quando ascoltavo Radio 2, oddio, sembrava sentire di vinile. No, ma io parlavo di amplificatori d'alta frequenza, broadcasting, che c'erano pochi di giri per arrivare. C'era il primo da 0,2, poi da 0,2 lo portava a 2 watt, a 2 watt a 20, da 20 poi c'era l'amplificatore e te lo portava quanto lo volevi tu. Tappa, sempre di quale sto parlando. Facendo così riuscivi ad avere una separazione migliore e non avere flussi di fondo, perché una cosa è un apparecchio che fa tutto, che vietano il segnale BF per dire lo converte, dopodiché lo preamplifica in quattro stadi e alla fine c'è una valvola che va di potenza. Un'altra cosa invece è avere singoli apparecchi precisi, regolabili tra l'altro, perciò tarabili, e uno fa precisamente quello che deve fare, che è anche più facile da gestire. Però ci sono altre complicazioni per lo meno. Beh, ogni volta che aggiungi qualcosa che ci metti un capo, qualcosa lo spetti. Poco, tanto. No, ma a parte i cavi, perché ognuno di quegli stadi di amplificatrici, tu stai amplificando anche le spurie e le armoniche, per cui se ne hai una, il secondo te ne porta 10, il terzo te ne porta 100, cioè è tutta una somma di cose, di guadagni, e alla fine se non c'è in ogni stadio filtrante, uno stadio filtrante, infatti molti il circuito stampato ci ha proprio stampigliato il filtro, anziché farlo imbobinato, te lo stampigliavano sul circuito stampato, mi ricordo quelli di un certo livello di impianti, c'era proprio il circuito stampato, fatte le spire disegnate sul circuito stampato, la bobina, faceva il percorso in modo per attenuare, c'era un filtro di attenuazione per cosa? Per i disturbi, per le spurie. Sì, infatti, aspetta un po' attenzione quando stai maneggiando, disaldando, smontando eccetera, perché quel disegnino che c'è sul circuito stampato lo devi mantenere con la spira, perché se la accorci la schiacci. Mi accadono di cose. E certo. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Erika Dino, ho sentito se l'ho lasciato questo pomeriggio, poi sono uscito, pomeriggio erano già le 7, sono uscito. C'era qualcuno d'altro, adesso non mi ricordo chi c'era. Natalia, una parabola, risolto. No, io sono andato via prima di te, poi ho lasciato l'aria accesa, però ho dovuto sfaccendare un pochino. È arrivata una mia ex di tantissimi anni fa. Col marito ha da me una salita da riparare, perciò l'ho perso completamente, poi cena e sono arrivato qua adesso. E allora io sono uscito, sono andato via pochi minuti dopo che sei andato tu, c'era Riccardino e poi non mi ricordo chi era entrato, qualche un altro, c'era Antonello Barracuda che stava facendo un prova c'era Marco e poi c'era quello di Muro su Claudio che non si intendeva nulla, non so se c'era anche tu quando c'era Claudio da Muro. Sì, ho sentito un paio di passaggi che ha portato in muta praticamente, perché il rumore di fondo del QRM mi tagliava la sua radio, di quello che stava parlando, passo passo, sotto sotto, però non lo capivo. Ma cosa ha rotto questa volta? No, non l'ho capito, sinceramente non riesco a raccapacitarmi di cosa succede con la stazione lì. E non è possibile, cioè ogni divina una nuva. Mi dispiace dirlo perché ci mettono tanta passione, ma io dico, è riuscito andare avanti ieri, c'era una radio spettacolare, aveva 9+10 pulito senza nessun aiuto. Ha detto non toccare niente, lascia stare tutto, mi pure è uscito con un'altra radio. Si c'erano problemi col microfono, non so cosa è successo. Sì, infatti io ho sentito quando stava andando molto bene, infatti contentissimo, ma ti dico di più, in ricezione la stazione è anche migliorata perché mi sentiva benissimo, non è sempre, perciò ottima ricezione, parlavamo benissimo, mi ha detto che era molto chiaro, in più lui usciva fortissimo, bellissima radio per dire. Radio a livelli di quella di Pomponio, Non ha tanto bello, mamma mia. Sembra che quando fa modula lui sta modulando da uno stadio con tutto il pubblico vicino, viene poco di macello, di voci, rumori, vento, ci mancano solo le bombette e fuochi d'artificio. Perché lui aspetta che arrivi le maggiorette, capito? Ha detto tante volte, poche volte l'ho sentito bene, Santone non tocca nulla, lascia stare, e di domani torna con un altro problema. Niente, adesso la stessa delta perché era più comodo sull'apparato che c'era Giovanna giù, vado lì. Lui si è fissato un po' questo BM1000 da quando stava lavorando su quel Polmar ZX Pro, ZX 40 Pro probabilmente, sì. L'ha preso in mano, visto che c'era, gli ha dovuto cambiare i collegamenti, una cosa e l'altra, dai, si usa il BM1000, poi per non sentirsi le spalle scoperte, ogni tanto a casa, capito? Perché a momenti, vabbè, che lui ragiona in maniera un po' diversa da noi, perché ha vissuto delle epoche sulla 27 un po' particolari, qualche parola è sentita, qualche scena è sentita, qualcuno l'ha detto, qualcuno che si vanta insomma di aver fatto grandi cose, eccetera, capito? Ma erano dei momenti, abbiamo passato dei momenti un po' tesi tanti anni fa, quando ero proprio ragazzo. E perciò ha tutta un'analogia, a certi periodi ha deciso di coprirsi le spalle in un certo modo. Stai capendo? Sì, ho capito il discorso tuo, ma io non lo condivido, perché io dico, a parte che siamo tutti vicini, si deve cercare di stare tranquillo anche per non disturbare nessuno, né splatterare né nessuno, perché non tutti hanno apparati sofisticati, nel senso selettivi e sensibili, molti hanno ancora baracchini di quelli della guerra e se tu attacchi potenza li senti in 30 canali, per cui non disturbi completamente. Accidenti, parli del diavolo. Mia, il grande Riccardino. Ehi, stavo facendo radio ascolto e tutto il tempo e quindi non ho fatto altro, ero tutto il tempo ascoltando la propagation sopra. Quanto gli piace la propagazione a Riccardino, guarda, una cosa, una malattia, guarda sì, come si chiama quando ti prende la malattia della ludopatia, tu guarda sì, propaga malattia. Sì, lui è propagopatico. Ah, non mi veniva, propagopatico. Riccardino, dimmi il numero, dimmi la frequenza che stai ascoltando. 145. Sì, che vado a vedere cosa c'è di 145, a me non mi piace, ma non è propagazione allora, Riccardo, quello è in diretta. Massuri. È in diretta al 145? Sì, stavo stavo ascoltando mentre parlava un mio carissimo amico. No Pockes. Cioè no Pockes. Quello che dice no Pockes. No, quello non ci va lì, non ci arriva fino a lì, è troppa strada. Dietro qua strada. Dico, quello che dice non so che se non riesce ad arrivarci fino a lì, parla solo in 27, penso. Ci parla poco. Ma stai scherzando, di chi stai parlando? Se stiamo parlando di quello che dice non pochese, nel senso quando è regolato tutto dice non pochese, e a lui se ci arriva, lui era diamato. Lo so, ma di solito è qui, adesso che c'è un brutto tempo si è spostato su, deve essere. No, già ci va, nelle vuole le usa ci va spesso, nelle HF perché magari ci va ben poco, ma nelle vuole le usa ci va spesso, Vujai. Ma tu stai parlando di lui o stai parlando di Giovanni? Fabricius. Ah, di Fabricius stai parlando tu. Sì, con un'altra persona che sono andato a visitare. Ma scusa, tu sei andato a sentirla, cioè l'hai sentito in radio o sei andato a casa sua? Sul 145 MHz, Fabrizio mi manda un messaggio, vieni ad ascoltarci sulla 145, ci sono io e un altro radioamatore. Vabbè, non è niente di strano, se vai ci sono sempre, ci sono anche i punti ripetitori e a voglia che ci sono. Perché mi voleva far sentire due cose, me le sono scritte nel foglio. Ho capito. Ah, io stavo parlando di un'altra persona, già mi ha capito chi dice no talkers. Già ho capito, al volo, già ho capito. E allora perché mi aveva detto che non ci poteva andare lui su 144? Ma dico, non ci poteva andare, è che io di solito non lo sento, lo sento la maggior parte delle volte, è sempre in 27 in ascolto, soprattutto orecchie di porco. Bella, aspetta, questa mi piace. Ok, vabbè, avanti a te. Campo, mi faccio dire un numero, mi faccio dire la frequenza, vabbè, il tastierino, premo enter, quindi faccio un po' più indietro, non vedi nessuno. Poi ci ho pensato, Roberto, vedo tutto. Solo dire, ci ha pensato, ma dove sei andato, sul ponte o dove? No, stavo canalizzando intorno a quelle frequenze, vedete se peccavo qualcosa, solo che ho collegato un'antenna che è centrata a 15 MHz, capito? Ne avevo da accordarla. È un po' difficilotto, dai. Io ho il discone viaggiatore. Bello, e dove viaggia? Viaggia, praticamente fa la tratta, 60, no, fa la tratta 25 MHz, 1300, fa la maratona. Caspita, cammina un bel, vabbè che sono un discone spaziale, eh? Un discone spaziale, ce n'è di meglio. Un disco volante, c'è cioè, il quello del coso della giostra. Sì, a volte per i figli ferro sono le risuami di mia antenna, però sicuramente la apprezzerai su alcune frequenze, in alcune condizioni, non c'è dubbio, cioè chi progetta un'antenna magari fa qualche errore, però non fa mai niente da buttare. Facendo, poi c'è il disco volante dell'autoscontro, della giostra pure, Riccardi. Certo, quello non dimentichiamocelo. Comunque parole sagge, Fabio, parole sagge. Che forte di cammino, ci voleva questo tocco frizzante in frequenza, roba che dici? Ah guarda, non per dire, te lo può confermare, non per farti ammodità, Riccardi chi è che ti ha lanciato qua? Dilli, chi è che ti ha fatto la padrina? I miei padrini sono Fabrizio e Roberto. Fabrizio è venuto dopo, dai, chi ti ha sempre fatto entrare all'inizio, quando qualcuno lo denigrava un pochettino, dai. Lui piano piano si è fatto voler bene da tutti, è impossibile non voler bene a Fabrizio. A Riccardo è troppo simpatico, molto maturo per l'età che c'ha, è assolutamente appassionato, per cui come fai tu a non voler bene a un ragazzino del genere? È infatti, già, ma si vede che ne ha neuroni che gli circolano, eh? E poi quattro parole una sera col padre, si capisce che questi neuroni non sono venuti a caso. Sì, ma poi c'ha un'educazione prima di tutto, non lo vedi mai, non perché c'è Riccardino, adesso non ti esaltare troppo Riccardi, no, la verità così, c'ha un'educazione dietro e poi la passione, la cosa più bella è la passione, ricorda per certi versi me da piccolino, da ragazzino, naturalmente non ho avuto le sue possibilità perché era un po' più complicato all'età sua fare quello che sta facendo lui adesso, lui c'ha l'appoggio e le sovvenzioni del padre, per cui l'esperienza del padre, qualcosa gliela proviamo a insegnare noi, è un piccolino, il nostro piccolo, per cui lui è un po' più avvantaggiato rispetto ad altri. Non fa paura per lui, con la radio in mano, vabbè che sono più abituati i ragazzi di oggi a essere molti contatti tra social, eccetera, magari capiscono un po' di più, perché se avessero fiato me alla sua età, in questo così di botto, in questo mondo multi-contact, probabilmente avrei apri gli schiaffi più piccoli, capito? Vabbè. Comunque io forse l'ho apprezzato qui, ma cioè sembro l'unico della classe che sono odiato. Di quale classe? Della mia classe, a scuola. E perché odiato? È una parola brutta odiare una persona. Sì, perché cioè non capisco. E io quando chiedo qualcosa non rispondono mai. E vabbè, questo sarà un caso. Cioè, mandano un video stupido, ma stupido, che non capisco neanche il senso. Tutti mando io un video interessante che fa anche ridere, nessuno, da. Riccardi, sei troppo intelligente tu per certe persone, e soprattutto molto più sveglio e più maturo, per cui prendila come un complimento questa cosa qua, non dire odiato, probabilmente invidiato, non hanno la tua intelligenza e la tua cultura, e lo dimostri continuamente che tu per avere 12 anni e quasi 13, dai, sei molto molto molto sveglio, probabilmente questi sono ancora ragazzini, diciamo, è normale che siano ragazzini di quell'età lì, che ancora fanno delle altre cose, tu stai frequentando almeno qua in radio con delle persone adulte, per cui hanno diversi argomenti per dialogare, loro rispetto a te sono molto ma molto più indietro, non ti preoccupare, è solo invidia e basta. Capisco. Vai, fa. Capo Riccardo, a tutti dimmi, una vita passata davanti agli altri, no, guarda, non è che mi devo vantare di niente, perché io sono sempre dell'idea che se qualcuno non arriva ai concetti ai quali arrivo io, non sono io quello finato, ma sono loro quelli che sono voluti rimanere in basso, capito? Perciò non è che mi posso vantare di chissà quali capacità, eccetera. Però posso dirti che, insomma, rispetto ai miei coetanei, tante volte ho detto sì, per la serie. Ma cosa si intende? A tutti i figli va. D'accordo, infatti è meglio avere molta autostima, tu devi avere la cosa principale, autostima, stima di te stesso, e tutto il resto fregatene, che ne sei un ragazzo più che normale, anzi più del normale per certi versi. E non ti preoccupare di niente, vai per la tua strada, fai le tue scelte, piano piano, poi quando sarai adulto vedrai che i risultati si vedranno, sicuramente rispetto ad altri che ti hanno invidiato, ti hanno fatto tutto. Ricordati sempre, l'invidia è la cosa più brutta, è uno dei difetti più grandi, l'invidia e la gelosia. E poi l'umiltà invece è uno dei più grandi pregi, per cui se c'è anche un po' di umiltà accetti anche molte volte le cose quando si sbaglia, a mettere il proprio errore, quella è la cosa, una grande virtù, poi tutto il resto viene di sé. Cosa Fabricius? No, Fabricius è il mio padrino, scusa Fabio. Io Fabio, io faccio addio allora, da? Ci trovo. Ma aspetta un pochino, no, tu li conosci bene i tuoi compagni di scuola, sì, c'è parlato, eccetera. Ma così un po', perché ci sono quelli a prendere con le pinze, quelli con le pinzette, quelli con la morsa a pappagallo e quindi. Bella questa parola. Secondo te, chi dei tuoi compagni di scuola può reggere conversazione con un adulto? Cioè, a questi livelli, che al tuo posto che riuscirebbe a dire o comunque a stare a proprio agio in una ruota, in un QSO, come fai tu? Fammi pensare, ci sono quelli saputelli che si fanno bene saputelli e poi non sanno niente. Poi ci sono quelli snob che vanno in giro fino a mezzanotte e quelli no. Poi ci sono quelli mezzanotte, ce ne sono tanti, gli insonni si chiamano, poi non lo so, ci devo pensare. Cerca, pochi io direi probabilmente non ne troverai, ma forse qualcuno c'è, non lo so. Purtroppo è così, ma tu fregatene, stai pagando, c'è lo zaino dietro, metti nello zaino tutto quello che ti porta la vita e poi vedrai che per bagaglio che avverso un pochino. Dei casi dove un consiglio? Dammelo, spedissimelo per posta. Un giorno, se capita, fai venire un tuo compagnetto di scuola per farti pubblicità, lo porti alla radio, ti fai parlare, ci parli tu, nel senso ti fai vedere, noi ti ascoltiamo, come fai, sta facendo adesso? Io sono sicuro che quel ragazzo lì, quando ritorna alla scuola, cavolo, sono andato da Riccardo, lo vedi che parla con tutti quanti, gente qua, ti farà una pubblicità e tutti ti guarderanno dal basso verso l'alto, nel senso dice chi è questo qui? E quella, se capita, fallo, e tu mi tornerai la risposta. E ti cartello in sull'autostrada, avrò i cartelloni sull'autostrada, pubblicizziamo il canale 10. Io non sto scherzando, te lo dico per esperienza personale, è capitato a me personalmente per certi argomenti e per certe cose. Ho trovato delle persone che mi hanno fermato, ma tu vero qua là? E io ho capito, ma ho detto c'è la pubblicità occulta, non fa. Cappa, c'è così, almeno rianimiamo il canale 10. È l'idea, Robè, l'idea. Ti puoi immaginare questi ragazzini che vedo a lui sto pratico, che tocca, sempre fa, disfa, break, avanti, break, oh ciao Riccardino, come stai? Ma questi chi sono? Beh, questo ha due figli, questo così, questo qua, parliamo tutti i giorni, cioè, te immagini, furioso, cioè così, gli scoppiava la testa. Sì, poi si inizia a parlare, aspetta che cambio apparato, mi metto il tunnel perché la modulazione non mi piace, devo accordare l'antenna, passo alla multiband, cacchio, quello rimane, vedete, ma questo cos'è Einstein? Tre. Fammi il controllo, come sto uscendo con questo? Santiago di 9.15, radio 5 abbondante, però le probabilità mi piacciono di più dell'altro, cioè il discorso è così, puff, buff, bambinetto è scoppiato. Sì, ma poi gli può fare anche la controprova, aspetta che vi faccio parlare con un amico, e gli rilancia l'amico, gli viene il micropanico. Però la parte del microfono deve semplificare parola, ognui, magari già sei tutto un figo, perché io, eccetera, sto tutto il cappuccello, capito? Ah, sicuramente farà bella figura, poi arriverà anche alla professoressa, il collo, abbiamo Riccardo che è anche un radioamatore che fa quello, quello, il preso, allora organizziamo una prova radio, mettiamo, installiamo una, un baracchino a scuola, così Riccardo ci fa vedere un coso e fai tu il capobanda, Riccardo. Ma mi è già successa questa cosa, avevo provato un giorno a fare un aeroplanino ed era andato benissimo, tutti che mi sono avvicinati fanno vedere come si fa con l'aeroplanino. Sì, ma se tu fai una radio, riesci a organizzare una radio, dice professore, lo possiamo fare come argomento tecnico, se c'hai, cosa ci sono materie tecniche, dice lo possiamo organizzare, io porto l'apparato a scuola, un'antennina e poi facciamo vedere come funziona, così spiego agli altri compagni di classe come funziona, tu lo vedi, diventerai il professore della classe. Ma di che materia? Ma no, qualunque materia, può essere anche l'italiano, non lo so, e applicazioni tecniche, cosa avete? Che materia avete tecnica? Abbiamo sostituito la religione che è informatica, però siamo in due. Ma qualunque materia, tu lo puoi fare come argomento, dici guardate c'è anche la possibilità di parlare di cultura generale, di cosa, no? Come sono le materie? Adesso non lo so come siano le medie le materie, come sono gli argomenti? Ce n'è un po' di materie, c'è letteratura. Vabbè, quella è tutta parte italiano, poi c'è matematica, scienze, informatica, poi c'è, vabbè, matematica, inglese, sempre le stesse sono, là, non è che cambia molto. Vabbè, anche scienze puoi fare, oppure poi lingua straniera, ti metti a dire tre parole in spagnolo, ti fa vedere, scucci l'Italia che va a chiamare, questo parla, poi ti fa due parole in inglese, do you copy Italy, tutti questo parla tre lingue perfettamente, poi ti ascolta, dammi un tuo QTH, il tuo corretto, cioè la gente dice, questo c'ha a parlare tante di quelle lingue. Perché di ragazzi che entravano non ne conosco, tranne quel Mirko che è cos'è il figlio di Coca-Cola. Non lo so, no, vabbè, ma io sto parlando, tu fai la prova come ti ho detto io, porti un compagnetto, o quello il più fighetto di tutti, quello che lo vedi il più figo della classe, o anche uno qualsiasi, anche se non è figo, uno normale, che c'hai un po' di dialogo, dici un giorno vuoi venire a casa, ti faccio vedere la stazione radio, eccetera, e vedi che tu, come cambieranno atteggiamento tutte le persone, ti farà una pubblicità, quello lì che è meglio della cosa, della RAI. Ok, vai Fabio, riprendi il mic. Cappa di casa, dico, già ho detto che dovevo accadere una cosa del genere, sono disposto a organizzarmi per essere in radio di argomento, capito? In maniera tale che comunque ci sia qualcuno, perché a volte magari non c'è nessuno, fare chiamate a vuoto non sarebbe una bella cosa. Se però lo organizziamo sta cosa, o magari che so pure quando porti il tuo compagno a casa e c'è qualcuno in ruota, ma io ci sto, capito? proveremo. Ma poi non so se sai di cosa c'ha, abita in un bel terreno, lui c'ha i cavalli, diciamo c'è un bel appezzamento di terreno con tante cose, neanche si immaginano dove vive per la gente, i compagni di lì, lo sanno i tuoi compagni dove vivi, Rica? Scusa? I tuoi compagni se lo immaginano, li ha informati dove vivi, che c'ha i cavalli, c'ha il maneggio, c'è quella specie di funivia che ci fai scendere le persone per divertirsi, c'hai quei mezzi americani, lo sanno loro. Alcuni, però non gliene frega niente a molti, però non avevo la stazione di SVL, adesso che sono un SVL posso far, adesso farò conoscere a tutti la Citizen Band. Certo, io sono sicuro che fai un figurone, fate che sei bello, bello artista, all'inizio ti ricordi un po' timidello, poi piano piano ti ho visto che ti sei, sono aperte le antenne e le orecchie, dai. Ok, adesso facciamo un attimino di bianco su canale 10, se vuoi fare qualcuno, se no riprendi tu Fabio, 2 secondi di bianco, nulla, vai tu Fabio. Kappa, no, non vuoi dire prima di tiro, perché io sono certo che il mondo è pieno di ascoltoni. Proprio me l'immagino, sai, quello con la radiolina piccolina che cerca di ascoltarci, l'altro con 2 stanze di apparecchi e 74 antenne sopra il tetto, quella in questo momento hanno le mani altrove, hanno la TV magari con un abbasso e ci ascoltano. Allora che cittino, dai, ne facciamo compagnia, facciamo greppa, ci prendiamo una birra in frequenza, dai. Fabio, Kappa. Chi sono gli ascoltoni? Gli ascoltoni sono quelli che rimangono in ascolto un momento, che poi vanno a riferire ad altri su altre frequenze, cose di queste frequenze qua, così anche altri vengono ad ascoltare qui, è tutta una compagnia di orecchie pelose. No, sei tu che stai sbagliando, si chiamano Orecchie di Borku. Orecchie di Borku è un termine coniato negli anni 80 da un grande CB di Urbia, che tu conosci. Sì, sì, conosco, conosco. Da mitico, mitico, pensa tu che un periodo avevo una radiosveglia meccanica, gli avevo messo un piccolo relè e lei mi faceva accendere Radio Venere, avevo un certo volume su un autoradio che avevo in console, diciamo, sul mio comodino, e un apparato sul 27125, canale 14. E la mattina partiva così, perciò come mi svegliavo davo un cosettino al microfono, usciva il beep e c'era sempre qualcuno sul 14, sempre, sempre, sempre. Robertus. Ah, qua parli di Sassari o di dove, Fabio? Sassari, Sassari, parlo fine anni 80, fine anni 80, 88, 89, fino al 93, poi sono andato a Roma, al 92 veramente. Poi sono andato a Roma perché ce ne frequenta solo quando ero qui a Sassari. E poi un altro piccolo periodo dal 95 al 96. E poi vabbè, questo è quello che vedo io, perché io sono stato solo in quei periodi qua a Sassari, capito? Ma c'era sempre qualcuno su 14. Tu davi un colpo al microfono, usciva un beep, avanti, sempre, a tutte le ore. Robè, scusa Fabio. Ma te ne ha parlato Fabrizio di quella cosa? Di che cosa? Spiegati meglio, non capisco. Che domani ti devo portare questa radio, facciamo scambio di radio. No, non mi ha detto, non mi sono sentito con Fabrizio. Vabbè, ha detto che la mia me la controlla, intanto mi dà la sua che l'ha aggiustata. Va bene, non c'è problema, quella spinge anche di più, quella che c'aveva lui. Sì, Kappa. Avanti Fabricius, Fabio, Fabricius magari, Fabio, avanti. Kappa, ricordi Kappa. Comunque per i tempi, c'era molta gente in radio, non c'erano i telefoni, ma c'era molta gente. E poi vabbè, ci conoscevamo di persona, tante volte ci eravamo insieme, ci trovavamo al quadrato, quando caccia il pallone, chi portava la diretta, ci dava gli appuntamenti, si spostava in macchina di questo, in macchina di quello, chi in moto, io addirittura avevo il portatino senza prezzo, insomma. Ma ci ho visto un po' l'aria di quei tempi e ultimamente qualcuno di vecchio che entra, qualcuno che ascolta per una settimana poi entra anche lui, quelle cose, dai. Sì, il coronavirus per certi versi ha riavvicinato le persone alla radio e anche ad altre cose, dai. sono aumentati i CB tantissimo, in gente, infatti io vabbè, non è che ne abbia fatto molto di radio, l'ho realizzato nel 2004, fine 2004, ho fatto due o tre anni molto impegnati, nel senso andavo sempre, poi piano piano un po' ho decaduto, ci andavo così ogni tanto e poi mesi e mesi senza entrare, molte volte accendevo così, ero molto più impegnato, poi la sera adesso con quel fatto che non si poteva uscire, anche io adesso mi è ritornata la voglia di sentire, anche se è finito il discorso della galera del coronavirus, però la sera diciamo un pochettino a farsi una chiacchieratina è sempre piacevole, se ci sono persone interessanti, perché molte volte ascolto, però non mi piacciono gli argomenti e faccio altre cose col computer o ascolto in altre parti, molte volte è così succede, però la radio è bella perché c'è la possibilità di ascoltare, se vuoi ascoltare oppure se ti vuoi intromettere nelle conversazioni, schiacci il mic e parti. Ok, vai Riccardo, a te il mic. Infatti, come schiacci il mic, alcuni devono stare anche attenti alla potenza, o un kilohertz, 10 kilohertz, spaccano tutto. Non kilohertz, kilowatt, l'hertz è la frequenza, la potenza si misura in watt. E io mi sono indigato, confondo, pensando ad altro, stavo pensando ai canali più potenti, 145. Già quando c'è tempo ti do qualche libricino di cosa, ti fa delle letture, ci sono delle cose interessanti, si parla un po' di tutto nella radio, dai CB fino a fine radio amatori, gli apparati, se capita già te lo faccio leggere, così ti informi anche di qualche argomento un pochettino più tecnico. Ok, cosa volevo dire? Riccardi, come ha detto Fabio, tu non hai della gente che ce ne ascolta adesso, ma non decine, io penso almeno 70-80 persone, per non dire 100 persone collegate. Io ho trovato delle persone che ci hanno ascoltato per anni, questa persona ci siamo visti d'estate, una persona grande, e lui ci ha dato la vita al baracchino, non so se sia mai entrato, però gli piace ascoltare, io ti ascoltavo tutte le notti con questi, parlavate di me, qualche volta parlavate di tutto e qualche volta è venuto anche il mio nome, infatti avevo nominato questa persona, conosciamo molto meno, una persona molto più grande di me, l'ho fatta perché era, no, a me non piace, a me piace ascoltare, e ce ne sono tanti che fanno SWL, come per dire, noi la possiamo fare sulle bande radioamatoriali o sulle bande diciamo le HF o altre bande, c'è gente che ascolta, lo fa così per passione e non preferiscono non entrare, ma qua ci sono sicuramente delle persone che parlano con lui in questo momento che stanno ascoltando, come dice lui, orecchie di porco in italiano o orecchie di bocco in sassarese. Già lo so che stanno ascoltando, non sono l'ultimo arrivato. Già lo credo, e tu già ne sai qualcosa, dai. Perché molte volte poi ci risentiamo queste persone, l'indomani, davvero, ieri vi stavo ascoltando, ieri notte ho visto cosa avete fatto, ce ne sono tante, me ne capitano tante di persone, dai. Ok, vai tu Fabio, a te il microfonios. Da punto di ascolto, visto che anch'io ascolto anche tanto, ti ho detto una cosa un giorno, stavo ascoltando, riguardo a, forse stai parlando con me, non ricordo, come riguarda un tuo amico, al quale hai fatto acquistare, anzi al quale hai fatto vendere tutta una serie di apparecchi d'epoca per auto d'epoca. Hai capito di chi sto parlando? Di te con la M. Non ho capito il discorso, scusa, puoi ripetere, ma stiamo parlando di macchine o di che cosa? Stai parlando di auto, radio in macchina, auto radio d'epoca. Ho fatto vendere o ho fatto acquistare? Scusa, non ho capito. Sei tu che sei stato il trade union, come si suol dire, tra le controparti per l'acquisto appunto di questi apparecchi. Michele, giusto? Sì, no, vabbè, siccome anche quell'altro che ho fatto acquistare inizia con la M, uno è Michele, quello che ho acquistato è Marco. Ma tu Michele lo conosci, ce l'hai in contatto? Sì che ce l'ho, conosco molto bene, perché lo conosci? Perché ha chiuso, giusto? Allora, Michele teoricamente dovrebbe aprire solo il periodo natalizio su da quel posto dove sei tu, diciamo, non diciamo particolare perché non mi piace parlare delle persone che non ci sono. Dopodiché si è prolungata la situazione e sono arrivati sino a quasi a febbraio, poco prima del coronavirus, poi il proprietario del locale, che era un suo diciamo socio di vendita, dice, aveva l'altro pezzo della rivendita, uno si occupava di certe cose e l'altro di mobilia, a un certo punto ha detto no, io devo dividere qua e l'ha affittato a non so chi, adesso sono un po' che non ci vado, e di lì purtroppo ho dovuto andare via, adesso si trova senza spazio, sta cercando qualcosa Michele, e non è facile trovare uno spazio idoneo, soprattutto come era quello lì. Beh certo, no, questo hotel è abbandonato, anche perché ha chiuso anche un suo amico la quale mi ha mandato, che stavo cercando così di sgabuzzare qualcosa di audio a basso, e mi ha mandato da un altro amico che anche lui ha chiuso. Situazione molto simile, intendo come location, no? E sapevo che doveva chiudere, ci dovevo passare, però almeno per salutarlo, non lo so, e invece non ce l'ho fatta, non ci siamo neanche scendati in contatto. Perciò ho detto, va, se questo ha tutto questo materiale, eccetera, cosa ne vorrà fare? Vorrà riaprire da qualche parte? Magari altri, non lo so, capito? Ma tu perché vuoi il numero di Michele? No, il numero di Michele no, non mi permetto di chiedere, di chiederlo, ci mancherebbe. Piuttosto cioè sapere se poi in qualche maniera si era riattivato, perché avevo un bel po' di materiale, non sono cose che poi alla fine... puoi mollare facilmente. No, allora sei presente, Michele ha chiuso quel posto lì, però lui è ancora operativo. Poi c'è stato il discorso del coronavirus, perché se tu vai in Piazza d'Italia l'ultima domenica del mese e la prima del mese all'emiciclo, tu lo trovi sempre a Michele. Poi tu dall'altra persona stai parlando di Gianfranco, quell'altro che ha chiuso? Probabilmente sì, lo fece un simile, eccetera, e va degli apparati audio. Ma allora, quello che prima dove c'era Viale Portatore, se poi è andato per Danieta dove c'è Mauris e poi è andato in via Coso, e la Principessa Maria, stiamo parlando di quello? No, negativo, praticamente Viale Italia in fondo. Viale Italia, ecco, la traversa di la Principessa Maria è una traversa di Viale Italia, stiamo parlando di quello, vicino a quello che vende le moto, Mille Raggi. No, lui era direttamente al Conad. Ah, tu stai parlando di Luciano era da me in officina, siamo grandi amici con Luciano, ci abbiamo fatto la macchina l'altro giorno proprio. Tu conosci bene a Luciano? No, bene no, ci ha parlato solo una sera, così, poi in argomento c'era anche un suo amico tra l'altro simpatico, io volevo solo chiedere due informazioni così, vedere cosa ne va in mano. E non aveva degli apparecchi che potevano interessarmi. E perciò mi ha detto, no, guarda, quello che cerchi tu, insomma, no, così, è poco vendibile, ci vuole appassionato, io cercavo più che altro di te questa fascia di mercato in questa maniera, e da lì abbiamo chiacchierato, addirittura mi sapevo un paio d'ore, adesso chiacchierone io, però anche lui lo scherza. Allora, Luciano, siamo molto amici, diciamo, il fratello è una persona che si occupa proprio di queste cose che stiamo facendo noi, di controlli, che è andato in pensione, è molto molto conosciuto a Sassari e provincia. A Luciano abbiamo fatto degli scambi, io gli ho fatto fare un affare mondiale a lui, perché a me non servivano, perché c'ho altre cose, gli ho dato delle casse recentemente, delle casse Infinity, le ho dato a Torre, bellissimo, sono spettacolare, però vicino all'ascolto che faccio io non è che sono molto adatte, perché io ascolto ad alto volume, mi piace sentire quel basso un pochettino, e sfiguravano di fronte a quelle che ho adesso di casse, non essendo, diciamo, sono due cose diverse, quando ascolti genere di musica devi avere quel tipo di altoparlante, eccetera eccetera, e lui gli ha dato queste Infinity, quando le ha viste era un po' titubante, lui ci aveva delle vendite alle GBL, altre le Kef, eccetera, quando ha visto queste qua ha detto no, non ce n'è, ce le ha portate a casa sua e non le vende più, ha detto no, quelle non le venderò mai, cioè non sono allucinante quelle Infinite, a tre vie hanno 1,20 m di altezza, e poi abbiamo fatto delle scambi, le ho fatto prendere altre robe, mi ha dato delle cose a me, lui è un grandissimo appassionato di modellismo e se vuoi informazioni, quello è uno dei più bravi che c'è in circolazione, ti dice vita e miracoli di modellismo micidiale, c'ha un po' di roba e c'ha un po' di pizza. Capo, ho visto che era più di qualcosa lì, ho visto che era una persona preparata, uno che si permette di esporre in una certa maniera, e lo capisci da lontano si vede, vabbè, poi ci vuole un po' di attenzione per vedere certe cose, però gli ho alcuni particolari, poi alla fine vabbè, eravamo in chiusura di negozio, stava preparando la chiusura, molto precisa, sbaglio. Sì, assolutamente. Allora è il collega del padre di Riccardo, di una vita, diciamo, tanti anni di lavoro hanno fatto insieme. E, diciamo, la traversa non è il campo suo, però è abbastanza preparato, diciamo, dice la sua, dice, si dà da fare, nel senso è abbastanza preparato nel campo wifi, lui per dire scambia, ogni tanto vende qualcosa, e ricambia, cioè fa uno scambio, io ho fatto tante cose con lui. L'ultima cosa mi ha dato una cosa, perché a lui non gli serviva un lettore di 200 CD della Sony, se ti dico quanto l'ha pagato ti mette le mani alla testa, un bestione grosso, ci metti 200 CD e te li legge tutti in sequenza, oppure a caso, secondo senza logica. Ecco, io ho il Technics MC410, grazie di SL, no? Ho capito, deve essere veramente molto carino. Chiamo l'immagino, caricamento per qualche sito, prende il disco, lo accoglie, se lo mette a legge, risposta con l'attore dentro. Figata. Doppio carrello o carrello singolo? Questo è tipo un jukebox, cioè presente tu i jukebox che tu ci metti tutti i CD in una cesta tipo una lavastoviglie che ci metti i piatti, tu fai quando ci metti il CD, lo infili dentro, ti esce fuori, ci metti tutti i CD, ci sono, aspetta, non è cosa, se 200 o 300, adesso non voglio dire perché mi confondo molte volte, siccome lo stesso lo faceva anche la cosa, la Denon, mi sembra tipo quello lì, questo è il mio Sony, non so se è una 200 o 300, li metti tutti dentro, te li tira dentro, inizia a leggerti con modo casuale, oppure uno dietro l'altro, c'è una maglia, non è che si usavano nei supermercati, cose così per queste cose, però ti posso dire, l'ho preso quasi a regalo, mi ha fatto un prezzo, vabbè, cioè siamo amici con lui, ci facciamo delle cortesie a vicenda, poi gli avevo dato tempo fa delle altre casse della Sony e poi mi aveva dato delle casse da 32, belline, dai, abbiamo fatto uno scambio, delle Pioneer, le uso di lì per ascoltare musica, la discoteca con la console, eccetera, non sono un granché, però sono abbastanza efficienti, perché ho due sale di ascolto io e poi ogni tanto qualcosina la tira fuori, c'ha un paio di applicativi, ho visto della Yamaha, della vecchia della Sansui, che l'ho riapprezzato il marchio Sansui, non mi immaginavo che suonassero così bene, ci credi, normalmente li ho un po' snobbati, eppure ti posso dire quelli vintage Sansui, quelli di un certo peso suonano. Guarda, il mio era piccolino 2x30, però si faceva notare molto, soprattutto i tre, che è comunque transistor, per sentire il 2000, di pregio a livello che per tanti anni l'ho usato con lo valvolare come finale, perciò i tre Sansui per l'MM e il finale valvolare, bello, raffinato. Neanche la Marantz, sotto alcuni aspetti, è arrivata alla Sansui, anche se Denon, eccetera, hanno spinto un periodo, anche Onkyo, altri marchi, hanno provato, tirato e mollato, però erano tutti a caccia della Sansui. Per alcuni pezzi, secondo me, non arrivali, per certi. Sì, no, ma sono stato sorpreso dal suono, ti posso dire, no, ma soprattutto la cura costruttiva, perché io l'ho sempre un po' snobbati, perché neri, boh, era sempre tutto nero, rari ne ha trovato Sansui argentati, diciamo satinati, tutti neri, c'era il coso suo come la camicia, il nero Sansui, la pubblicità, e c'era mio cognato, però ti posso dire, li ho riascoltati, e ti posso dire, non sono male, io diciamo sono un po' fanatico della Marantz, infatti ho il Marantz, quello grosso io, e poi prima ancora successivamente la roba più commerciale, la Technics, ci sono tanti pezzi della Technics, ti posso dire vanno più che bene, però per quell'ordine di prezzo andavano più che bene, sono molto ricercati, tu se vuoi vedere le quotazioni Marantz e Sansui hanno dei prezzi da paura, tengono o in NAD, sai, chiedi un apparecchio degli anni 70, fine anni 70 della NAD o della Marantz o della Sansui, si cagano a marchi molto più prestigiosi. A parte, vabbè, i mostri sacri, quelli non li cerchiamo, però sono dei grandi marchi costruiti senza economia e fatti bene. Sì, campa. Nato, te l'ho citato proprio poco fa, quando parlavi del sistema costruttivo per il broadcast FM. Nato aveva un sito amplificatore, che tra l'altro non aveva neanche pretese, mi sembra fosse anche lui tipo 2x30, con controllo acuti, controllo bassi, tasto per la compensazione, sincronizzatore a manopolone, assolutamente senza altre selezioni, con l'FC escludibile, la possibilità di portare monofonia, tre bande, perciò LV, AM ed FM. Bene, con Radio 2, con classica JBL che adoro, sembrava di sentire di venire, con Radio 2, Rai Radio 2, sembrava finire, però beh, allucinante. Io ho dei ricordi di ascolti perfetti, privi di rumore di fondo, con acuti e con dinamica veramente interessante, con la ricostruzione dei nidi precisa, la presenza, quanto ci ha detto, non sembrava sentire la radio, sembrava veramente di sentire un buon vinile sotto fuori con una buona MM, almeno tipo la K95, una sensazione veramente, veramente forte. Sì, sì, no, infatti ho molto registrazione, quando c'avevo la radio mia, prendevo la Rai Serio 2, Serio Notte, e poi dove davano musica di qualità. Addirittura quando Rai Mono c'aveva una qualità la Rai 2 era superiore alla Rai 1, oppure forse era più curata, non lo so, l'emissione era un po' meglio. Poi vabbè, poi c'avevamo anche una radio privata, noi Radio Zero, che c'era Cuni, Gianni Cuni era un ex tecnico del suono della Rai, infatti era la migliore radio come qualità audio, non ce n'era per nessuno, c'aveva delle apparecchiature di assoluta qualità. Poi è uscito un di Mondetta, infatti riferimento alla cosa all'epoca era Radio Zero, poi piano piano sono tutte decadute, però la qualità di uscita audio di Radio Zero era numero uno. Dopo la Rai c'era Radio Zero, molto meglio di tantissime radio broadcasting, ti posso dire era eccezionale la qualità, la cura maniacale dell'emissione. Anche io quando uscivo con la mia cercavo di uscire nel migliore dei modi, sono stato uno dei primi a avere l'encoder stereo, a uscire in stereofonia. Poche radio ce l'avevano all'epoca, però non avevo le apparecchiature di Radio Zero, c'era l'intelco di trasmettitori, cioè cose di altissima qualità. Io avevo trasmettitore molto più economico, però nel mio piccolo mi sono divertito. Vai Riccardino, avanti a te. Sì, io mi ero notato un attimo che stavo mettendo il cane dentro, che c'è, che perché sennò quelli cigliello carica subito se va fuori dal cancello. E va bene, non so il discorso perché mi sono notato un attimo. No, stavamo parlando di apparati, come si chiama, audio, non radio, apparati audio. Nad comunque è un marchio nel suo piccolo poco conosciuto, diciamo, solo gli audiofili lo conoscono, però in genere se parli con la gente normale Nad è poco conosciuto, però cacchio, ha dato filo alla torcia da marchi ma molto, molto più costosi e più prestigiosi. E adesso se tu vuoi ascoltare un Nad, la gente si innamora. Guarda, questo amico ne aveva uno, forse era solo un amplificatore. Io ogni volta che leggo quel nome, anche se non ho intenzione di prendere niente perché sono altri tempi, sono andato più avanti, l'ho visto e ho sorriso e gli ho detto, che carino, insomma, hai anche questo, guarda. E gli ho detto, insomma, non è più il massimo, ma la stavo notando. Io per cuore invece ogni volta che lo vedo. Ma stai parlando del Nad tu? K, stai con Nad, stavo facendo un amplificatorino. Ma qual era? Quello chiaro, non era nero il Nad, quello satinato, alluminio? Forse sì. Sai, con quei caratteri classici del tempo, con quelle scritte, con quei caratteri particolari. Sì, sì, ho capito, perché il Nad normalmente sono neri. Quello che c'aveva lui era quello piccoletto, avrà una ventina di watt di potenza. Lui aveva un bel fansui, infatti l'hanno detto, lui è molto amico di Mario Nottari, non so se lo conosce, tenitelo conto che questo è un apparecchio che vale un sacco di soldi ed è molto ricercato, sta solo guadagnando prezzo. Ci sono quegli apparecchi che ce li hai, è meglio lavoro che fai da parte, perché ma ne riparliamo per 10 anni, vedere quanto valgono, rischi di darli per un paio di pezzi da 100 e poi a questo punto apri eBay, un po' come la Saturn Echo, no? E scopri che c'è chi era 4, 5, 7, 8, 8, hai 250 miliardi e gli abbracci, l'abbia data io ai 20 miei. Sì, già lo so così, l'altro marchio che non è molto conosciuto ma grande marchio, parliamo sempre di cose normali senza salire a livelli di altri marchi tipo Mark Levison, Krell e cose del genere, quelli non li cerchiamo. Parliamo di marchi appetibili alla gente normale, i Luxman, io mi ho perso, cacchio me ne mangio tutte le volte che ci penso, il mercatino Portobello a San Simplicio avevano portato un valvolare della Luxman, c'era scritto valvole da esaurite, diciamo, era una cifra ridicola. Ma me lo prendo al momento, ho detto no, ci passo domani, sono andato, sono venduto, era una cifra ridicola, un valvolare della Luxman, ma un'estetica da paura, tutti i coso dorati, satinato, alluminio con le cose, le manopoline dorate, era una cosa spettacolare, una cifra ridicola, io scemo, se non prenderlo subito l'ho lasciato stare. Papa, a volte sfuggono gli affari, Riccardino è testimone di una farina che mi ha fatto di coordinamento, è vero Riccardo? Sì, e non te lo dovevi far scappare, era un grandissimo affare, lo sa anche Roberto. Ci stava così bene a sempre questa qua, così, molto simili, praticamente la stessa altezza, messi uno in fila all'altro, magari con lo stesso numerino acceso, così, questa qui c'è la voluta a sinistra, quella di 18 centimetri dall'altra parte, insomma, sarebbe uscita una sottincina di quelle di chitte, quasi quasi una cosa professionale, di chi sei professionali. Di cosa state parlando? Non ho capito, illuminate. C'era un radioamatore che vendeva un Galaxy Saturn Echo con il microfono. Beh, chissà ha preso Fabio, tu ce lo sei. No, mi è sfuggito. Poi tra l'altro il mio microfono preferito, perché io comprerei solo questo microfono che sto usando adesso. Magari senza queste modifiche, magari verdi, così come da quello. Magari pure con laterali, che qui non ci sono più. Magari pure con i pomelli, che io ne ho messo uno che ho trovato. Magari pure con i tasti suoi originali, che non ce li ha più. E se non è illuminato, chi se ne frega, ci metto la lampadina come qua. Vabbè, io non ho problema, mi sa che quello domani lo provo e me lo aggiudico. Oggi ho visto su internet un baracchino base della Midland, vecchio, no Midland, Alan era marchiato, 80 euro, ah, bello veramente, frontalino chiaro, bianco, cose così, con l'altoparlante frontale, ho detto il prezzo 80 euro, dice se interessa a qualcuno per inutilizzo, e ha scritto uno, ma è funzionante, certo che è funzionante, al 100%, qualsiasi prova, e c'è, no, subito è andata a rubare, vedi gente scrivendo, lo voglio io, 80 euro, frazione base, molto carino, dai. È stato anni 70. Buonasera, l'avrei preso io, Paolo. Ma la giudicavo subito. L'avrei preso io, buonasera a tutti. Ciao Tony, infatti ho pensato a te Tony, non ho neanche risposto, c'erano 10 persone in mezzo, te lascia perdere. Questi si scornano, cazzo. Io conosco Franco, stamane sono andato. Se l'ho visto glielo penso, allora, se sta lì a pensare. Ma di cosa stai parlando? Sì, ma chi? Ma base? Sì. E quanti sei preso? Midland. Ma Franco Binario stai parlando o quello di Sorso? Quello di Sorso. Ah, ok, che modello è della Midland? Allora, fammi vedere, dunque, la base però non è 220, cioè 12 posti, non frega niente, non è grande, capito? È il Midland modello 78-574. Che colore è? Nero? Bianco, AM, FM, cioè AM e USB, LCB. Guardate canali. E vuole riverniciato sopra il tocco romano, questo qua, che lo devi qua bene per lo rivernicio. Sì, no, sono sempre uguale, base, io ti ripeto, come dici tu, io sono innamorato delle stazioni base, però i veicolari proprio nemmeno a tirarmene a balla, non c'è neanche uno che mi dà quella cosa di dire cavolo che bello, mi piace, me lo compro, nessuno, e ne ho diversi veicolari, è proprio una cosa che non mi attira. Proprio non ci riesco a vedere gli scomodi piccolini, con lo smitter piccolo, a me invece piace gli strumenti belli grandi, grossi, tipo il massimo dei baracchini base è l'AC, quello che c'ha Claudio, c'è la Marco Scorpio, c'è la Walter, l'altro radioamatore, sono il più bello in assoluto dei baracchini base, è enorme, bello, con strumenti giganti, a valvole. Ciao Riccardi. Ciao, cari amici che sono abituati qua. L'ho appena acceso poco fa, l'ho soltanto, ma ho completato una cosa su internet, quindi ti ho sentito nominare Romè Mario Notari, il famoso CB Mario M2, cavolo, che fine ha fatto? Ah, non sapevo che modulasse pure lui, è un grande riparatore, diciamo, molto esperto in apparecchi di coso, di come si chiama, di audio, amplificatori, casse, fa un po' di tutto, un po' lenticcio da sistemare le cose, però ne ha sistemato tante di cose qua a Sassari. Ok, Fabio, continuato il discorso di audio, quando sono questi argomenti mi si illuminano le orecchie, come diceva qualcuno, dai. Ce ne sono tanti di marchi, ma quelli gloriosi, quelli vecchi, tipo la Marantz, non cerchiamo i Macintosh e cose del genere, quelli non li tocchiamo, i Cremac, Levison, Adico, non cerchiamo quei marchi lì, che quelli sono per le persone che hanno soldi, però di cose normali, per uso normale, i Marantz, i Nad, Luxman, eccetera, eccetera, io ho un Kenwood, si chiama Kenwood, non come si chiama, non partitore, che questo c'ha di tutto, è una cosa enorme, sarà 80 cm di coso, si chiama Kenwood compositore, non so se lo conoscete, adesso chiedo dopo conferma a cosa, a Fabio. Questo è un apparecchio enorme, è fuori standard, diciamo, di dimensioni normali, è un sinto amplificatore, si chiama Kenwood compositore, perché c'ha generatore di ritmi, echi, riverberi, tutte le cose possibili e immaginabili, per attaccare una marea di microfoni, chitarre, c'ha addirittura il timer, eccetera, eccetera, il comando a pedale per comandare i microfoni. L'ho trovato in un mercatino a Larghero anni fa, l'ho preso al volo, tu non hai idea la gente quanto me lo sta cercando su internet, io faccio parte di un gruppo di vintage, di apparecchi vintage, ma lo stanno cercando da tutte le parti, perché è un apparecchio molto raro, ne hanno portato pochi in Italia, ma ha preso 20 kg, è enorme, non so se lo conosci, il Kenwood compositore. Vabbè. Dimmi Riccardo. Comunque, detto babbo, se me l'hai espresso bene, quello che devo prendere io, il trio, è grosso quanto 2K. Sì. Di altezza è molto più grande, di larghezza una volta e mezza, però è molto più profondo, è una bestia, è enorme. Allora mi sa che non ho più spazio, devo trovarmi una scrivania più grande. Ti fai i piani come ho fatto io, inizia a mettere i piani e poi se non bastano i piani li metti pure l'ascensore per portare la roba su. Io ne ho 1, 2, 3, 4 piani di roba c'ho io. Vabbè, dimmi. Roberto, che appena ha fatto a farli notare? No, sta ancora lavoricchiando, ha chiuso l'attività, eccetera, però qualche lavoretto per gli amici, non lo so sinceramente, non lo frequento, lo conosco di nome e basta, qualche volta l'ho conosciuto così per altri motivi di lavoro, quando era insieme all'ingegner Meluni che lavoravano col negozio, ti ricordi, forse Fabio lo conosce, Audiolina, ti ricordi in Viale Mameli? Caspita, me lo ricordo, io, ma lui abitava in Viale Mameli. Oh, Tony, ma cosa ho usato, Dio, ma mi ascolti? Tony, l'ascolti a Fabio. Anche io, Tony, non mi ricordo, mi è uscito di testa pensando alle stazioni di base, non so se ti ho salutato. Tony, ti ha rilanciato Fabio, lo ascolti a Fabio. A livello corretto. Mi dispiace, adesso qualche giorno anche lui si sistema le antenne così, schicchieggia forte, fa saltare i nidi a tutti i rondini che ci sono qua in zona. Ma io ho detto sacco di volte a Fabio, a volte lo sento bene, oggi invece non lo sento, porca miseria. Veramente di chiaro. Lui c'era un periodo, ascoltavo Santiago 910 ed era a 200 metri da me, figurati, e ti la metti tu, mentre gli altri qualcuno lo ascoltava bene, in altre zone di Sassari, no, qua sta arrivando a 9+30, però considerando che c'è un pezzo di antenna e sta uscendo da dentro casa, giù mai. Comunque, volevo dirti, vabbè, per ritracciare a Mario io come posso fare? Io dovrei chiedere a quella persona che ha nominato lui, Luciano, eventualmente se riesco a farmi dare il numero di telefono farò il modo di fartelo avere. Sono carici amici da Vecchia Adatta, era un bravissimo riparatore di questi baracchini a quei tempi. E poi si abitava a Vidiminde e poi sono sparito anch'io, quindi ho perso tutte le tracce. No, le devo far vedere qualche cosa di, insomma, può riparare, capito? E lui c'ha un sacco di roba pure, quello è uno di quelli che c'ha. Non come un amico mio, Fabio. No, no. Guarda, io ho un amico che è spaventoso, questo è un collezionista seriale, tu ti metti le mani in testa se vai a casa sua. Allora, non so se conosci i piatti micro, penso di sì. Micro secchi, non so quante versioni ne esistano, ne esisteranno 20 versioni, ce le ha tutte quante, addirittura c'ha i doppioni, quelli che hanno il piatto in alluminio altissimo, inciso, presso fuso, che si vedono tutti i segni e per quando lo fai girare, per sapere a quanti giri sta girando. C'hai presente il micro? Cambia, ce l'ho presente, è una delle mie cose ripeti da bambino, figurati, l'avessi ancora in mano il mio, Ma stiamo parlando di cose molto molto preziose, ne avrà una ventina, tutti scatolati nuovi, tutti con i bracci SME separati, che poteva attaccare 2 o 3 bracci, nel pieno di bracci. Poi c'è l'elenco di tutta la roba che c'ha e di quello che ha avuto, lui è molto amico di Mario Nottari, tutta quella gente lì, ha collaborato con l'ingegner Meloni, eccetera, per cui ha provato tutto e di tutto di più di queste cose, è stato forse anche mezzo socio, non lo so. discorso, ma cosa c'ha di amplificatori, di cose, e quello ti mette male in testa. Ma non perché li usi più di tanto, ma ha portato l'elenco di quello che si stava vendendo. Ecco, da iniziare, i McLevy sono, prima non li vendeva e poi se li ha venduti, doppio, due mono, destra e sinistro, poi Tannoy, BMW di casse, Macintosh, Cabre, cosa c'era? Non Cabre, ma che si chiamano? I Quad, le casse della Quad, le casse e le Jensen con le elettrostatiche, che ce l'avevo anche io, però le mie erano più grosse. E poi cosa cacchio, siccome si chiama quel marchio? Sì, Quad sono, che faccio anche gli amplificatori, c'è il 3 e l'amplificatore, le come cacchio si chiamano, le Dynaudio, c'ha un elenco di cose, di amplificatori, di casse che tu ti metti le mani in testa, ma decine e decine di pezzi. Capo, hai mettiato ai pezzi era amico stessi, una piazza GVC professionale per le cassette, che aveva sempre il solito problema che dovevo recuperare con il settore al Dantario, che se ne andava ogni paio d'anni, amplificatore Marantz molto simile al tuo, uno scalino un attimino più giù, Evo 3-6 e cassettando lui. Eccomi qua, questo è il mio impiantino. E poi col tempo sono arrivati i vecchi dei due, ho venduto il mixer outline, le casse RCF che erano furiose, poi altre copie di casse outline, e a girare piazze pitch, sempre pitch.